Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La Giunta Veneta ha completato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il cosiddetto PTRC, il Piano dello Sviluppo Futuro del Veneto, adottato nel 2009. Un piano che assumerà anche valenza paesaggistica. Al rinnovo di questo piano si è proceduto con una specifica variante parziale da inviare al Consiglio regionale. Questo piano è la madre di tutte le carte, afferma Marino Zorzato, il vicepresidente della Giunta regionale e assessore al territorio della Regione Veneto, ed è il piano che dà gli indirizzi a cui attenersi con una maggiore attenzione rispetto al passato per l'ambiente, il paesaggio, l'uso e la salvaguardia del territorio, anche alla luce di eventi naturali come alluvioni e terremoti che si sono verificati nella nostra regione. Il piano paesaggistico suddivide il territorio in 14 ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali è previsto uno specifico piano paesaggistico regionale d'ambito, PPRA. Dal momento della pubblicazione sul bollettino della Regione Veneto ci saranno poi 60 giorni di tempo per presentare delle osservazioni. Questo è il contesto di questa variante che introduce l'aspetto anche paesaggistico nel piano regionale territoriale. Vorremmo parlare oggi con Giuseppe Romano, presidente dell'Unione Veneta Bonifiche, che era già stato nostro ospite qualche mese fa quando avevamo parlato di rischi ambientali legati alla situazione estiva anche della siccità. Benvenuto di nuovo con noi in trasmissione, signor Romano. Buongiorno. Buongiorno, ecco, chiamavamo lei di nuovo perché dal vostro osservatorio, quindi Unione Veneta Bonifiche, visto che questa legge parla anche specificatamente di salvaguardia dell'ambiente, quindi da eventi come alluvioni e terremoti, voi avete un osservatorio appunto privilegiato e quindi ci può dare il suo parere su questo nuovo provvedimento e anche su che cosa si sta facendo o si dovrebbe fare per la salvaguardia del territorio. Beh, guardi, innanzitutto credo sia una buona partenza, perché credo che bisogna, innanzitutto, noi diciamo da diverso tempo che bisogna frenare e dare un freno al consumo del suolo, perché credo che dobbiamo oggettivamente cambiare, quindi fare un nuovo cambiamento significa cambiare la nostra prospettiva rispetto ad un territorio, perché è evidente che negli ultimi anni si è costruito molto, io direi quasi troppo, quindi credo sia arrivato il momento di invertire un attimo la rotta ed iniziare a costruire, sì, perché per carità c'è necessità di costruire, magari riutilizzando delle aree magari già compromesse, riutilizzando questo, ma soprattutto, come si può dire, costruendo in modo diverso, costruendo in modo più attento anche alle esigenze idrauliche di questo nostro territorio, di questo nostro Veneto, che sicuramente è un territorio estremamente fragile, come dimostrano le alluvioni, quindi da un lato un territorio produttivo importantissimo, da un lato però la fragilità si nota spesso e volentieri. Quindi si è costruito probabilmente troppo e comunque in posti e luoghi sbagliati. Guardi, a volte cito come esempi alcune questioni. Quando si dice l'utilizzazione di via Palù oppure l'utilizzazione di via Basse, cioè già il nome stesso ti dà la sensazione che lì ci sia un problema altimetrico, cioè via Basse certamente non era un posto alto, quindi si presume che in quella realtà probabilmente ci sia stato un affossamento, un abbassamento del nostro terreno, e via Palù. E quindi potrebbe essere un posto a rischio idraulico, insomma. Sì, bisogna sempre ricordare che il territorio veneto è per un terzo sotto il livello del mare. Sembra una cosa come la viviamo talmente naturalmente, siccome il lavoro di consorzio di bonifica è talmente presente, talmente continuo, che non si nota, ma noi abbiamo circa 400 idrovore che tutto il tempo dell'anno assicurano ad un terzo del territorio veneto di essere all'asciutto. Per cui è evidente che bisogna anche pensare a dove e come costruire, e soprattutto dove si costruisce pensare che si devono cambiare magari modalità di costruzione. questo piano che verrà adottato recepisce un po' anche queste richieste? Voi avete potuto contribuire anche a questa zonizzazione che è stata fatta e quindi identificare i luoghi dove si può, dove non si può? No, noi non abbiamo per ora partecipato a questa zonizzazione in quanto il piano in questo momento prevede delle osservazioni in contrario. Però la cosa fondamentale e importante è che si inizi a parlare di non consumo del suolo, di cambiamento delle questioni, ma quella cosa più importante, ma questo l'aveva già evidenziato ancora una delibera della Giunta regionale prima in Italia nel 2004, è la famosa invarianza idraulica. Cioè, se noi andiamo a costruire, perché si può, noi non siamo contrari di principio alla costruzione di nuove zone, però bisogna costruire con degli approcci diversi. Quindi l'invarianza significa possiamo costruire, però da quella realtà, da quella zona, non deve uscire più acqua di quella che ne usciva prima del cambio di destinazione urbanistica. Quindi certo, questo assieme ad altri accorgimenti, e quindi questi sono soprattutto al famoso nome di invarianza idraulica, ripeto, primi in Italia e vengono da applicare. Io credo che questo ulteriore passo in avanti con questo piano territoriale di coordinamento ci consente di andare ancora nella direzione della maggiore sicurezza. Certo che non possiamo pensare alla chiusura totale, cioè all'annullamento totale di tutta una serie di pericoli che ci sono e che continuano ad essere. Insomma. Certo, ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. drammatizzare come mi piace amarti, e insieme andiamo avanti. Questo amore è un segno universale, è congiunzione astrale. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Giuseppe Romano, presidente dell'Unione Veneta Bonifiche, stiamo parlando del piano territoriale regionale di coordinamento, la cui variante è stata proposta e adottata dalla Giunta regionale del Veneto. I comuni sono gli enti che disciplinano il territorio e quindi sono forse i vostri primi referenti e anche i nostri, insomma, come cittadini. E cosa si sta facendo con loro? Sono forse con loro che bisogna parlare quando si parla di tutela e di salvaguardia del territorio? Beh, guardi, su questo l'Unione Regionale delle Bonifiche, quindi il Consorzio di Bonifiche del Veneto, hanno attuato assieme all'ANCI, che è l'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto, certo, un protocollo d'intesa ancora l'anno scorso, dove abbiamo proposto che ci siano delle regole, le famose 7 regole, diventino una prassi quotidiana. Bisogna pensare sempre che negli ultimi 30 anni il consumo di suolo in Veneto è aumentato del 27%, ovvero 50.000 ettari edificati in più, con conseguente perdita della superficie agricola utilizzata di 44.000 euro. Tradotto, in Veneto 1.724 ettari all'anno vengono cementificati. Quindi bisogna assolutamente ritornare a un attimo di buon senso. Chi oggi ha in mano gli strumenti per fare questo sono sicuramente i comuni, perché gli strumenti urbanistici sono in capo ai comuni, certo, in capo ai comuni attraverso i PAT, e quindi l'invarianza idraulica che dicevo prima viene applicata nei piani regolatori. Si deve assolutamente ritrovare, recuperare la capacità di invaso nelle aree sia edificate, sia agricole che quelle edificate, e su questo noi chiediamo che venga esteso il piano delle acque, che oggi è uno strumento essenziale che permette un monitoraggio completo del territorio, evidenziando i punti di debolezza e programmando le azioni conseguenti. Quindi noi stiamo da tempo lavorando assieme all'ANCI, quindi ai comuni, per dare questa risposta che per noi è estremamente importante. State facendo anche delle altre azioni di sensibilizzazione anche rispetto a tutta la popolazione rispetto a questi rischi? Guardi, noi stiamo operando in questo ultimo periodo, abbiamo fatto anche un accordo con le associazioni di consumatori, appunto per far trasparire anche nei confronti dei consumatori, quindi anche dei cittadini contribuenti che soprattutto vivono nelle aree urbanizzate del Veneto, il lavoro che sta facendo il consorzio di bonifica, la tutela e la costante presenza dei consorzi di bonifica, per far capire l'importanza della prevenzione. Ricordo un altro dato che per noi è estremamente importante: investire in prevenzione è importantissimo. Un euro investito in prevenzione significa risparmiarne 5 in danni, senza contare ciò che dopo ne consegue, perché sappiamo benissimo che i danni a volte si ripercuotono anche in danni, chiamiamoli così, dal punto di vista umano e dal punto di vista delle vite umane in quel certo, caso, per cui non è una questione solamente economica, ma anche un'altra questione forse ancora più importante, la prevenzione, l'investimento migliore. Certamente, sì. Assolutamente. Noi tra poco lanceremo anche in Veneto una campagna di promozione per quello che riguarda la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico anche in Veneto, portando dati alla mano e mettendo nero su bianco il lavoro che abbiamo fatto come consorzi per quel che riguarda la prevenzione. Benissimo, noi daremo sicuramente notizia di questa campagna e anche per questa volta la ringraziamo per la disponibilità e ci risentiremo sicuramente di nuovo in futuro. Grazie a lei. Grazie. Passiamo adesso ad alcune notizie. A distanza di 5 anni dall'entrata in vigore del testo unico, ha visto finalmente la luce il decreto interministeriale che semplifica gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro per gli stagionali in agricoltura. Ne dà notizia Agri Insieme il nuovo coordinamento tra CIA Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, secondo il quale il decreto recepisce sostanzialmente le indicazioni avanzate dalle parti sociali agricole nel 2011. Le semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori sono particolarmente importanti, sostiene Agri Insieme, perché intervengono in un momento storico che vede le aziende agricole particolarmente gravate dal peso della burocrazia. con adempimenti che diventano sempre più numerosi, onerosi e complessi da gestire. Con il decreto recante le semplificazioni sugli stagionali, diventa ora invece effettiva la possibilità di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, con cadenza biennale e con valenza presso più aziende. Compirà a breve 101 anni Alberto Rizzotti, giornalista e storico fondatore dell'Informatore Agrario, una rivista ben nota nel mondo dell'agricoltura nazionale che fu da lui promossa nel 1945 e che oggi viaggia verso il traguardo dei 70 anni. Venerdì 3 maggio alle ore 10.30 a Verona presso la sede della rivista vi sarà l'omaggio a Rizzotti e sarà l'occasione propizia per un'ampia riflessione sull'informazione in agricoltura. Oltre ad Elena Rizzotti, attuale presidente dell'Informatore Agrario, sarà presente Franco Manzato, assessore regionale all'agricoltura, e Mimmo Vita, presidente dell'Unione Nazionale Associazioni Giornalisti dell'Agricoltura. Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello Europe Direct Veneto e con il patrocinio tra gli altri della Regione Veneto, organizza per giovedì 9 maggio 2013 dalle 9.30 alle 17.30 il primo Festival delle Denominazioni di Origine Protetta Venete. Il festival si terrà presso la sede Wigwam ad Argerello di Piove di Sacco in via Porto 8 e nell'occasione i consorzi delle DOP e delle IGP Venete partecipanti esporranno prodotti e materiale divulgativo permettendo al pubblico, comprese alcune scolaresche, di entrare in contatto con i prodotti a marchio europeo della nostra regione. Sono previsti momenti informativi di dibattito, promozione e valorizzazione. Ne parleremo più estesamente con il nostro ospite della prossima settimana. Anche per questa settimana invece è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima, vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.